Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Oggi a Destini incrociati facciamo un tuffo negli anni 60, o se preferite i mitici anni 60, che sono il periodo in cui l'Italia, dopo la guerra e le difficoltà della ricostruzione, è davvero cambiata. Sono i giovani per la prima volta a dirigere la storia, con le loro idee e le loro aspettative per il futuro, i loro ideali e le loro mode. Musica, televisione, cinema, la cultura pop passa dai media e porta la minigonna. 1960. Mentre Fellini celebra la dolce vita romana, tra divi e paparazzi che si ritrovano nei caffè di Via Veneto, e il professor Alberto Manzi si fa bandiera della televisione educativa con le sue indimenticabili lezioni scolastiche, Sandro Ciotti racconta tutto il calcio della domenica minuto per minuto. È il boom delle radio a transistor che gli italiani si portano dietro un po' ovunque. Se tu ascolti il calcio alla radio, in qualche maniera ti senti più coinvolto. 1961. 100 anni d'Italia. Feste e celebrazioni mentre Yuri Gagarin a bordo di un'astronave sovietica vola nello spazio. Esplode la produzione di dischi in vinile e le gemelle Kessler lanciano il Dada Umpa nello storico programma Studio 1 di Antonello Falqui. Gli ospiti sono del calibro di Mina e Totò. Lasciamo dell'ironia. Dunque, ma cosa fatto, cantava? Che opere faceva? Io facevo il barbiere anche. Il barbiere? Il barbiere l'ho fatto a Londra. A Londra? A Londra facevo il barbiere. Quel barbiere spagnolo, come si chiama? Barbiere spagnolo di Siviglia. Come lo so? Come lo so? No, lei mi ha seguito. Conoscono tutti. 1962. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Due uomini, Gassman e Trintignant, sono protagonisti del sorpasso di Dino Risi e altri due, Claudio Villa e Domenico Modugno, sono i protagonisti della canzone italiana. Dilaga il twist, impudico e sfrontato, secondo i moralisti, ma subito celebrato da Edoardo Vianello con Guarda come dondolo. 1963. E se prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, adesso siamo in tre a ballare l'Alligalli. Gli italiani non smettono di ballare. Dopo il twist è la volta dell'Alligalli, ma per sognare e innamorarsi ci si affida alla voce di Gino Paoli. C'è un'incredibile febbre tecnologica. Le cucine si riempiono di elettrodomestici a cui per la prima volta le donne cominciano a delegare per concedersi magari un giro in Fiat 1100 col marito. Nei sogni di Clara e di Tino c'era sempre una piccola macchina color latte con la quale partire appena sposati. Un bel viaggio di nozze con poca spesa. 1964. L'Italia esporta il western grazie a Sergio Leone, mentre le telecamere nascoste di Nanni Loi per specchio segreto diventano un classico della televisione, la Candid Camera. 1965. La rivoluzione femminile parte dalla stilista Mary Quant, che con la sua minigonna libera le donne di tutto il mondo. Gianni Boncompagni e Renzo Arbore sconvolgono la radio con Bandiera Gialla e la Polaroid permette di immortalare sensazioni e ricordi, come tutte le indimenticabili serate legate al Piper, il locale romano appena inaugurato, che si prepara a essere la culla del beat. Lolite, musica, balli e tanti sogni, Roma, febbraio 1965, nasce il tempio della musica, della ribellione, della generazione Beat Shake, nasce il Piper Club. Nessuno può star solo, non deve stare solo, quando si è giovani così. Dobbiamo stare insieme, parlare tra di noi, scoprire insieme il mondo che ci ospiterà. Il Piper, fino al 1965, era un vecchio cinema abbandonato a cui Vittorio Gassman aveva pensato come sede per il debutto del teatro popolare italiano. Invece diventa il locale più bello, nuovo ed eccentrico non solo di Roma, ma dell'Italia intera. Intorno al palco e alla pista l'arredamento è raffinato e studiato nei minimi particolari. Dipinti di Andy Warhol, Schifano, opere di Piero Manzoni. I proprietari Giancarlo Bornigia e i suoi soci non hanno lasciato nulla al caso e fin dall'inizio il successo del locale li ha premiati. Subito dopo l'apertura del Piper bastava dire al tassinaro portami al Piper, che ti portava al Piper, non c'era bisogno di dire portami via tagliamento 9. La sala è illuminata da 350 luci stroboscopiche multicolori e sulla pista svettano cubi luminosi sui quali le ragazze più spigliate, inconsapevoli di essere le prime cubiste, possono salire e ballare. L'impianto sonoro all'avanguardia consente un impatto mai sentito prima e il manifesto per il lancio ha una grafica accattivante da cui fa capolino una ragazza svedese che nell'immaginario italiano, dopo Anita Ekberg, è diventata il simbolo della trasgressione. Tutti vogliono andare al Piper, il punto focale delle notti romane. I ragazzi aspettano il sabato sera per prepararsi a uscire, sperando una volta là di incontrare qualche personaggio dello spettacolo da cui farsi fare un autografo. Le ragazze, abituate a non uscire la sera, incominciano a infilarsi la minigonna. E quando i papà, tradizionalisti e un po' gelosi, non glielo permettono, trovano un escamotage per mettersela lo stesso, come farsene portare una da un'amica, arrotolare in vita una gonna lunga per farla diventare corta. Tutto si ispira al movimento beat inglese, a partire dalla musica che arriva ai giovani attraverso le radio private dal sapore proibito, Radio Caroline e Radio Luxembourg. Li chiamavano i piperini, ragazzi della Roma Bene che danzavano con i loro ideali mentre le ragazze facevano scandalo con le minigonne di Mary Quant. Il Piper è l'icona di una generazione brillante, intraprendente, che vuole emanciparsi dallo stile dei genitori per creare un percorso tutto suo. Un percorso che sa di libertà, leggerezza e meno di convenzioni sociali. Cambia il modo di ballare, non più a coppie, non più il ballo della mattonella. Si balla per sfogarsi, per lasciarsi andare. È un divertimento individuale e fine a se stesso. Insomma, si può parlare di classico mix sesso, droga e rock and roll in salsa nostrana, come raccontano le immagini del libro Piper Generation, raccolte dal produttore e DJ Corrado Rizza. In quei giorni del Piper, in quegli anni, il 65 e il 66, sono stati degli anni magici, perché comunque è stato un periodo di passaggio dal nightclub alla discoteca che ancora oggi noi viviamo. Quindi sicuramente è stato un qualcosa che i giovani hanno vissuto in maniera sperimentale, quindi non c'è stato niente di raccontato o comunque di già vissuto. Alla serata inaugurale sul palco ci sono i due gruppi del momento, The Rogues e gli Equipe 84, sulla cresta dell'onda, tanto che nel solo 65 hanno fatto uscire ben 5 45 giri. Il pubblico è in delirio, l'atmosfera è da grande città, tutto si ispira a Londra e all'Inghilterra, che sta vivendo il momento d'oro della musica e dei club, dove tra fiumi di birra e fumo di sigaretta debuttano i musicisti destinati a fare la storia. Ed è proprio questo il sogno di Bornigia e dei suoi soci. C'era questa voglia di riuscire nella vita. Infatti quel gruppo che veniva tutti i giorni sono diventati quasi tutti famosi. Il pomeriggio dalle 4 alle 8 è riservato ai piperini più piccoli, ma è la sera che si scatenano i ragazzi più grandi. Nicoletta Strambelli, futura Patti Pravo, Renato Fiacchini, futuro Renato Zero, Loredana Bertè, vengono notati da un talent scout mentre sono in pista con gli altri, ma si distinguono per grinta ed energia. Così iniziano a fare i ballerini per Don Lurio e Rita Pavone fino al decollo della carriera. Con loro c'è una giovanissima ragazza della provincia di Modena, occhi da cerbiatto, sorriso per tutti e temperamento al peperoncino. Il suo nome è Caterina Caselli. Caterina Caselli. L'amore mi fa molto, molto ridere. Caterina ha fatto la gavetta nelle balere e nelle parrocchie della Bassa Padana, tra fiumi di Lambrusco e feste dell'Unità, cantando con il suo gruppo Gli Amici. Modena è un centro, da un punto di vista musicale, non so, forse favorito anche, o forse grazie anche alle balere, che quindi la possibilità di potersi esibire senza essere necessariamente delle star. È l'unica ragazza della band, ma tutte le sere parte col pulmino pieno di strumenti e carica e scarica come gli altri. Una vita che sua madre non condivide, ma che grazie a suo marito capisce essere quella giusta per Caterina. E mio marito, che allora c'era ancora, quando ha fatto le prime cose così dalle sale parrocchiali, si alzava da sedere, voleva, dove vai? Vado a sentire cosa dice il pubblico. Ma sta qui, dicevo, ma dove vai? E tornava sorridendo e diceva, piace a tutti. Quasi un piccolo sondaggio che la Caselli verificherà dai grandi palcoscenici italiani qualche anno dopo. Quando cantavo io avevo più o meno 20 anni e cantavo per l'Italia, ho cantato in tutti i luoghi, province, città, e avevo un grande pubblico. E tra questo pubblico c'erano bambini, c'erano ragazzi, ragazze, papà, mamme, c'erano dei nonni e soprattutto io piacevo moltissimo alle nonne. La tavola la spacciavano per erba, qualcuno abboccava, ma poi scopriva il gioco e si incazzava. Finiti seta noi per ognuno una metà. Caterina Caselli viene da una famiglia molto umile e deve smettere presto di studiare per aiutare la mamma che fa la magliaia. Ma mentre sua sorella lo fa con impegno e passione, lei srotola la lana di malavoglia, con la testa che pensa a tutt'altro. A scuola di canto veniva a casa, prendeva ancora in mano la chitarra e ricominciava a suonare. Io, stanca dal mio lavoro, sentire ancora questi solfeggi mi davano fastidio. Non vede l'ora che arrivi la sera, quando Ivo Callegari, suo maestro di chitarra e membro della band, passa a prenderla per andare a suonare e schiaccia insistentemente il clacson finché lei schizza fuori di casa urlando un saluto frettoloso ed entusiasta alla mamma e sale sul pulmino. Caterina non vuole fare la cantante per capriccio e tantomeno è affascinata dal mito effimero della fama. La sua è una passione sana e consapevole per la musica, che la spinge, oltre a cantare, anche a suonare chitarra, basso elettrico e batteria. E questo, all'inizio degli anni 60, è abbastanza strano per una ragazza. Ma lei ne va fiera e aspetta solo la sua grande occasione. E una sera venne a trovarci Maurizio Vandelli dell'Equipe 84. Mi guardò e mi disse, ma certo, ma cosa stai qui ad ammuffire? Tu devi venire a Roma. Roma è molto diversa da Modena. È viva, brulicante, in pieno periodo dolce vita. I caffè e i locali sono pieni di gente che beve, chiacchiera, balla. Piano piano arrivano le novità dall'Inghilterra e dall'America. La musica beat, moderna e rivoluzionaria, è la vera passione di Caterina. Io faccio solo beat. Senti, spiegaci un po', che differenza c'è fra beat e ye ye? Beh, ye ye è un genere così, allegro, spensierato, carino, mentre invece che il genere beat è un genere che batte in quattro il tempo ed è un genere che si fa così con la voce arrabbiata, sì, è tutta un'altra cosa. Le ragazze ye ye sono la moda francese del momento. Spopolano tra il 59 e il 68 e si chiamano così con una parola ye ye che è quasi un suono senza senso perché cantano quei successi rock e twist che vengono dagli Stati Uniti. E siccome l'adattamento è spesso fatto in fretta e furia, le due sillabe ye ye permettono di rilanciare il ritmo e mascherare le parole mancanti. Per estensione, questa espressione dallo stile musicale è passata a raccontare i cantanti stessi e poi un vero e proprio fenomeno di moda. Sylvie Vartan, Brigitte Bardot, François Hardy. Le ragazze ye ye sono moderne, anticonformiste, un po' scandalose anche. Sono ironiche, sbarazzine, con minigonne e frangetta hanno segnato un periodo. Tanto che Caterina, quando le propongono di partecipare a Castrocaro, sceglie di ispirarsi proprio a François Hardy, senza pensare troppo al fatto che lei è molto diversa da quello stile. Castrocaro feci la versione in italiano di Tous les garçons et les filles, che è una canzone semplicissima, insomma, dove non ci vuole certamente un temperamento particolare per poterla cantare. Fui scelta dalla Peer Publishing e mi suggerirono di fare Ti telefono tutte le sere, proprio perché io in qualche modo li indirizzai male, cioè con la mia scelta Tous les garçons et les filles, è evidente, ti telefono tutte le sere ma tu non ci sei, era molto simile, la direzione era questa, ma era ben lontano da ciò che mi piaceva, da ciò che volevo fare. Ti telefono tutte le sere ma tu non ci sei. Caterina paga la scelta di un brano sbagliato. Fare la ragazza ye ye non è davvero nelle sue corde. Lei ha una voce aggressiva, dura, e le canzonette non fanno per lei. Non a caso il suo pezzo forte, da sempre, è 24.000 baci. È caparbia, tenace, ha molta fiducia in se stessa e sa cosa vuole. Le basta guardarsi intorno per capire che è all'avanguardia. Io mi esibivo con il mio quartetto ed era molto diverso rispetto a ciò che era la normale musica che si sentiva, insomma. E così, nel 1964, nonostante la casa discografica continui a credere in lei, il suo primo 45 giri è un flop. L'illusione di farcela dura pochissimo e poi il sogno svanisce con la stessa velocità con cui è iniziato. Neanche la presentazione del brano durante la trasmissione La Fiera dei Sogni di Mike Bongiorno riesce a portarle fortuna. Ma Caterina non molla e continua la gavetta sul palco del mitico Piper. È stata sua madre a insegnarle l'umiltà in qualsiasi lavoro e lei ne ha fatto tesoro. Mia mamma ha sempre cercato di superare gli ostacoli della sua vita, ne ha avuti tanti, una persona pragmatica, però con una forza positiva. Mia mamma ha sempre detto, per comandare bisogna prima saper fare, bisogna conquistarsi le cose, non devi pensare di averle così. Diciamoci la verità, per far cantare tutti la canzone c'è, e questo è il ritornello che non vuol dire niente, però il segreto c'è. Chi non la canta subito, chi non la canta subito, in un momento a lei diventa brutto. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Roma. È il 1965 e una giovane ragazza della provincia di Modena, Caterina Caselli, sta cercando di vivere di musica. Voce inconfondibile, spirito da maschiaccio, si esibisce con il suo gruppo e gli amici in giro per i locali della capitale, soprattutto al Piper Club, dove stanno sbocciando tutte le nuove mode che arrivano direttamente dall'Inghilterra e dall'America. Caterina fin da subito rivela il suo temperamento e perfino un grande della canzone come Renzo Arbore intuisce che la ragazza farà strada. Era assolutamente naturale, assolutamente senza nessun sussiego, quello che io chiamo il sussiego quando si accende la telecamera e tu devi fare, cantava proprio con la passione, col cuore. Partecipa a Castrocaro, ma sbaglia la scelta della canzone e il suo primo 45 giri non ha successo. Così Caterina cambia casa discografica e passa alla CGD della famiglia Sugar, dove scelgono di rischiare e di puntare tutto sulla sua originalità e sul suo talento. E finalmente, nel 1966, arriva la grande occasione. L'uomo del destino di Caterina Caselli è più di un personaggio, è una vera e propria icona. Yuppidu, yuppidu, yuppidu. Cantautore, attore, regista, imprenditore, guru. Impossibile per la sua stessa natura anarchica ingabbiarlo in una definizione. Il suo nome però dice tutto. Yuppidu, yuppidu, yuppidu. Adriano Celentano. Yuppidu, yuppidu. Adriano Celentano. Io credo di essere normale come mi comporto, soltanto che diventando un po' celebre ho scoperto che questo mio modo di comportarmi sciocca il popolo. E quindi ho notato questa cosa qui e niente, allora io continuo a essere così. La carriera di Celentano dura ormai da 50 anni e lui è considerato uno dei pilastri della musica italiana. Autore di musiche, coautore di testi, ha fin dall'inizio macinato un successo dietro l'altro. Il suo carattere ha fatto sì che attorno a lui si costruisse un personaggio divenuto emblema della società italiana. Un personaggio che ha fatto della svagatezza la sua bandiera. Cosa intende, scusi, lei per svagatezza? La svagatezza è l'istinto che l'ha portato a intuire, prima degli altri, che il mondo della musica e del costume in Italia stava cambiando e che i giovani avevano voglia di spingersi verso un trasgressivo boogie-woogie americano più che rimanere ad ascoltare le solite melodie sanremesi. Celentano, il molleggiato, ha cominciato a ballare in modo tutto nuovo, sfrenato, senza inibizioni. Soprattutto ha intrapreso una strada controcorrente, dividendo in due l'opinione pubblica, come spesso succede ai grandi. Celentano o lo si ama o lo si odia. Anzi, io sono sincero, perché ha qualcosa da dire. Tente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Al Festival di Sanremo del 61, 24.000 baci arriva seconda, ma Celentano colpisce nel segno, scandalizza il pubblico cantando di spalle e girandosi solo dopo il cambio dell'orchestra. Io gioco volentieri, insomma, vedo che il pubblico gioca volentieri con me, quindi... Tutti i giovani vogliono ascoltare quella canzone che nella sola settimana successiva vende più di 500.000 di copie. Caterina Caselli ne fa il suo pezzo forte quando canta in giro per le balere o le parrocchie dell'Emilia Romagna e vede come un mito inimitabile e irraggiungibile quell'uomo che di lì a poco cambierà il corso della sua vita. La personalità di Celentano lo fa presto diventare personaggio, ma sembra non esserci niente di costruito, di pensato a tavolino. Il ruolo di selvatico, ribelle e cinico Elia, protagonista del divertente Il bisbetico domato, è fatto apposta per lui. Al 100%. 100% cosa fa? 10.000. Come mai? La vita. Fiori, fantasia, la la la la la la, forza che sei tutti noi. Ruvido, controcorrente, non ama mostrarsi proprio quando il pubblico lo reclama con calore, provocatorio e polemico, per molti fastidioso. Ma è lo stesso Ermanno Olmi, grande regista e amico del molleggiato, che sottolinea come la genuinità sia la caratteristica dominante di Adriano. Lui, nel suo gioco di finzione, è straordinariamente autentico. Un'autenticità che gli viene dalla sua genuinità. È riuscito a conservare in tutti questi anni quell'angolo d'infanzia dentro di sé che è l'aspirazione di tutti. Il tuo bacio è come oro. Celentano è sincero, schietto, onesto, dice quello che pensa e non si nasconde dietro a convenzioni sociali e ipocrisie. Rivendica persino il valore dell'ignoranza, intesa come semplicità nel modo di affrontare tutte le cose della vita. E per i media, secondo una sua stessa definizione, diventa presto il re degli ignoranti. Quando tutto diventa preciso e sofisticato, e anche l'intelligenza assume una perfezione sempre maggiore, poi dopo magari le rivelazioni, forse quelle più importanti, che sono magari quelle più semplici, vengono sempre da così, da uno che passa per la strada, da un ignorante o da uno che non sa né leggere né scrivere. Negli anni 60, dopo il grande successo, le case discografiche si contendono lui e i suoi profitti. Celentano resiste per un po' e poi decide di liberarsi dalla schiavitù delle imposizioni del mercato. Seguendo l'esempio del Rat Pack di Frank Sinatra, raduna i suoi amici Ricky Gianco, Luciano Beretta e Miki Del Prete e fonda un'etichetta tutta sua che, per la totale libertà di sperimentazione, ricorda tanto la versione musicale della Factory artistica di Andy Warhol. Nasce il Clan, a cui i ragazzi con l'ambizione di far parte del mondo dello spettacolo guardano con speranza. Fra gli altri, Teo Teocoli. Avevo 13 anni, lui quasi 20. Ed io, che ero un suo grande fan, lo aspettavo sotto casa in via Gluck. E ricordo che quando lo vedevo arrivare con la sua Giulietta azzurra, mi veniva l'agitazione. La casa di via Gluck a Milano è il luogo dell'infanzia di Celentano, che è di origini pugliesi. Ma in quell'indirizzo era chiusa anche la svolta del destino, che ha per protagonisti Adriano e Caterina Caselli. Sanremo, 1966. Si sta preparando tutto per il grande festival che ormai è il più grande evento canoro italiano e non solo. Adriano Celentano ha pronti due brani tra cui deve scegliere. Il ragazzo della via Gluck e una canzonetta beat che non lo convince, tanto che il paroliere del clan, Miki Del Prete, la propone a Teocoli. Fallo tu sto pezzo, che è dato anche a te che balli bene e poi sai muoverti. Gianni Ravera, storico organizzatore del festival, va da Celentano e ascolta tutti e due i brani. Il ragazzo della via Gluck in effetti è l'ideale per il molleggiato, può cantarla solo lui. Ma per l'altro brano, la ragazza di Sassuolo che si scatena al Piper è davvero perfetta. Caterina Caselli andrà a Sanremo con Nessuno mi può giudicare. La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Destini incrociati. Destini Destini incrociati è nella città dei fiori, Sanremo, dove ogni anno si svolge il più grande evento musicale italiano. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. È il 1966 e Adriano Celentano sta per portare al festival Il ragazzo della via Gluck. Il brano autobiografico racconta l'esperienza di un ragazzo nato praticamente in campagna che ha visto trasformarsi la sua via in una strada di città. Una canzone, nonostante le apparenze, impegnata e provocatoria. Una città e quella casa in mezzo al verde ormai. Dove sarà? Scegliendo questo pezzo, Celentano ne ha scartato un altro che ha ritenuto brutto, dal titolo Nessuno mi può giudicare, e che è stato affidato, rischiando, alla giovane e sconosciuta Caterina Caselli. Lei appena vede lo spartito non si sente a suo agio, le sembra lenta, quasi un tango, così chiede aiuto al suo maestro, Ivo Callegari, per riarrangiarla. La canzone cambia completamente e Caterina va a provarla allo Junior Club di Bologna, un successo travolgente. Alla casa discografica, prima di Sanremo, non resta che occuparsi del look. Portavi i pantaloni, semplicemente dei pantaloni, molto semplici peraltro, devo dire la verità, erano a zampa d'elefante, rigati. Sai, questi colori vivacissimi, tipo anche lamè, cose di questo genere, zampe d'elefante, insomma, abbondante, non so come dire. Pantaloni a zampa d'elefante, minigonna e stivali in pieno stile Barbarella. Ma soprattutto, nell'epoca dei capelloni, in cui la capigliatura è un simbolo generazionale, bisogna pensare a un nuovo taglio. I parrucchieri vergottini della elegantissima via Monte Napoleone a Milano, antesignani dei moderni hairstylist, accolgono Caterina e optano per un look che ricorda i Beatles al femminile. Caterina diventa caschetto d'oro. Arbore capisce subito che è l'inizio di un successo. Caterina l'ho vista la prima volta andando alle prove del Festival di Sanremo, e che cantava, provava Nessuno mi può giudicare, insieme al collega Jim Pitney. E io dissi, cazzo, questa ragazza, questa fa la musica che piace a me. A vincere Sanremo 66 è il brano Dio come ti amo, della coppia Modugno-Cinquetti. Ma Caterina arriva in finale, mentre il ragazzo della via Gluck di Celentano viene eliminata dopo la prima serata. Il giorno dopo, senza rendersene conto, Caschetto d'Oro è una star. La domenica successiva abbiamo una serata alle Torri di Garlasco e noi arriviamo con la macchina come di consueto e vediamo tantissime macchine in fila, ma 3 chilometri parcheggiati. Io dico, ma cosa sono queste macchine? E allora arriviamo e dico, ma che cosa c'è? E dice, sono venuti a vederti. Come mi sono venuti? Cioè, l'effetto Sanremo in realtà fu un moltiplicatore veramente di successo incredibile. Tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo. Dopo Sanremo la carriera di Caterina Caselli decolla, vende centinaia di migliaia di copie e nello stesso anno trionfa al Festival Bar con Perdono. Il 12 febbraio 1966 Nessuno mi può giudicare vola in testa alle classifiche di vendita e ci rimane per un mese e mezzo vendendo più di 500.000 copie. Perdono. Questo ragazzo della via Gluck. Celentano, intanto, nonostante il risultato pessimo a Sanremo, conquista il grande pubblico con Il ragazzo della via Gluck, che in poco tempo diventa la sua canzone più famosa e rappresentativa. Per lui si apre una carriera fatta di cinema per qualche anno, televisione poca e musica sempre. Celentano è uno dei punti di riferimento per gli italiani di più generazioni. Siamo la coppia più bella del mondo. Una solidità che gli viene anche dal matrimonio con Claudia Mori. I due sono la coppia più bella del mondo. Una sera sono tornata a casa e mi ha fatto, detto, ti regalo questa vite. Io ci sono rimasta malissimo. Pensavo essere, no, ti regalo un anello, una roba. Caterina non dimentica le sue radici e la prima cosa che compra con i soldi guadagnati è una bella casa a Sassuolo. Modena è la sua terra, è qui che ha incontrato anche Francesco Guccini. È proprio Caterina, con vocazione da talent scout, che presenta Guccini alla sua casa discografica. Io già capii che dentro di me c'era questo desiderio. Io infatti mi rammaricai molto perché la CGD non prese e non firmò il contratto di esclusiva con Francesco Guccini. Per la Caselli inizia una nuova vita da produttrice. Con il marito ha scoperto i più grandi talenti degli ultimi anni: Giuni Russo, Bocelli, Elisa, Avion Travel, Baccini, Negramaro, Fiorella Mannoia. Sembra avere un fiuto speciale che non sbaglia un colpo. Io sono stata fortunata, ho avuto la musica, la passione per la musica che mi ha aiutato molto. E questa passione per la musica io la rivolgo nella mia professione oggi. Quando incontro un talento, io mi innamoro, ma proprio perdo la testa e vado giù proprio con tutta la mia forza, perché il talento deve essere di tutti. I tempi sono cambiati, è cambiato il mercato, sono cambiate le fucine di nuovi artisti. Non c'è più il clan Celentano e non ci sono più certi locali dove chi non era nessuno poteva diventare qualcuno. Come Patti Pravo, la ragazza del Piper. Adesso siamo qui a X Factor e allora stavamo di là al Piper. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.